È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Quanto sei bella Roma, quando è sera. La rivolta dei romani contro le pretese della Lega. La rivolta, caro Parenzo, dei romani, soprattutto del PDL, ma non tutti, non contro tutti. Cosa si rivolta? Io non ho capito. Contro la pretesa della Lega. Ma non succederà nulla, non avete ancora capito. Non succederà nulla. Dillo con parole tue. Non avete ancora capito, cari amici della Zanzara, che è tutta una clamorosa bufala. Non avete ancora capito che a Monza andranno soltanto due ministeri senza portafoglio. Ma forse nemmeno quello per le rifici. Metteranno una targa, cari amici, una targa a Monza con sopra scritto Ministero per le Riforme. E il signor Bossi starà qui due giorni a settimana a riposarsi nella villa di Monza e non cambierà niente, cari amici. Non sprecate il fiato, Alemanno! Governa Roma, Alemanno! Governa Roma! Le strade, le buche! Governa Roma, Alemanno! Roma! Che ti sembrano di quanto sei bella? Perché la realtà è questa: non succederà assolutamente nulla. L'avete vista quella targa esposta da Calderoli? Dove eri tu l'altro giorno? A Pontida? A Pontida. Quella targa sul sacro prato di Pontida. Pulisciti la bocca quando parli di Pontida, il sacro prato, quello del giuramento, della battaglia di Lepanto. Il Carro, no, Lepanto non era Lepanto. Era il Carroccio. Questo non è Parenzo. Chiedo scusa. Alemanno, una boiata i ministeri al nord. Nel programma elettorale che ci ha fatto vincere le elezioni non c'è il secessionismo, non c'è lo spostamento dei ministeri, non ci sono tutte queste boiate, ci sono una serie di cose concrete che vanno fatte. Se si segue quel programma elettorale si va avanti e si va a meta. La boiata che viene dopo la puttanata intercontinentale. Questa volta le parolacce, caro Parenzo, non le diciamo noi, ma non le diciamo noi. I politici. Le dice per esempio il signor Galan. Bravo, il solito Galan. L'esponente dell'ordine. Dovrei usare una parolaccia. È una cosa seria? No, è tutto fuori che una cosa seria. Se non fossi in diretta Radio Radicale direi che è una puttanata intercontinentale e mi meraviglio che non la si tratti da tale. Ma lo vogliamo dire qual è la cosa per cui indignarsi? Per cui tu ti indigni? Allora lascio indignare te, Parenzo, la vera cosa per cui indignarsi, le vere notizie per cui indignarsi. Leggine una. Cari amici della Zanzara, come ha scritto Sergio Rizzo sul Corriere Economia, la Sicilia spende per i propri dipendenti 12 volte il Veneto. Dove sei, Alemanno, per questa cosa? Dove sei, Lombardo, dal cognome così bello e evocativo, signor Lombardo? Dove sei? La Sicilia, 12 volte il Veneto. Lombardo, non ti ho ancora sentito. Parlalo. Il tempo si è fermato qui. Va bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Certo, è abbastanza singolare. E leggo oggi da un articolo di Dario Di Vico, sempre sul Corriere della Sera, che una forza politica che ha criticato sempre con ardore la spesa pubblica ministeriale si rivolga all'elettorato nordista proponendo il trasferimento di 4 ministeri come una via per aumentare l'occupazione in Brianza. Voi vi ricordate, una volta la Lega voleva addirittura abolirli i ministeri, cancellarli, no? Nella retorica della Lega. Adesso invece li vogliono portare per aumentare l'occupazione in Padania. È una chiara cosa. Va bene. Il mio ministero andrà alla Villa Reale di Monza, Bossi. Il mio ministero, quello di Calderoli, venga in Lombardia, comincia a venire in Lombardia, a Monza si parla. Poi il sindaco si è messo a disposizione, senza pagare, la sede, la ex Villa Reale di Monza. Vabbè, la Villa Reale di Monza, che sentiamo poi? Tanto è tutto, tutta Lega, è tutto, tutta questa roba dei ministeri, ma ti pare possibile che il governo si debba incartare, ma è tutto un gioco tattico della Lega, forse per provocare un incidente, forse no, non lo so, si debba incartare su questa storia ridicola del trasferimento dei ministeri al nord. Domani ci sarà un ordine del giorno, una mozione, non mi ricordo cosa esattamente, del Partito Democratico. Vedremo che succede. In cui, su cui potranno convergere anche alcuni parlamentari della maggioranza, forse anche una mozione del PDL annunciata dallo stesso Alemanno. Perché è la Lega a quel punto che farà cadere il governo, ma non credo, ma nessuno ha interesse ad andare al voto. Beh, però Borghezio, con questa legge senti, elettorale. Senti Borghezio ieri. Con questa senti, legge elettorale. Senti Borghezio ieri i tuoi microfoni, della 7, sì, sì. Davanti alla tua telecamera. Siamo alla svolta dell'Italia, non me ne frega un cazzo, la Padania è più viva che mai, basta venire a Pontida. Sosteniamo la Padania perché l'Italia non conta un cazzo, via da Roma la drona, mai più, last for Rome, via da Roma, c'è, giove, c'è, giove. Quanto sei grande Roma. Bene. La classica forza gentile. Onorevole Biancofiore? Sì, buonasera, buonasera. Come a tutti sta? Voi. Come sta? Bene, bene, grazie. Lei bene, che è del nord, tutto. Lei che è del sì. Nord, Trentina. Donna del nord. Alto Atesina, perdoni. Schiena diritta e faccia pulita. Allora, boiata e puttanata l'hanno già detto due persone. Aggiunga un'altra cosa anche lei. Dica un'altra volgarità al volo. No, che io volgarità? È una cosa vera che hanno detto. Non posso usare volgarità, mi dispiace per voi e per i nostri telespettatori. No, ma no. Sono stata ben educata, non le uso neanche nella vita quotidiana. No, però signor Biancofiore, penso che sia folklore, ecco, questo posso dire. Folklore. Credo che sia folklore, credo che la Lega, dopo... Sì. Soprattutto i forti, i grandi e i giusti festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia voluto dal presidente Napolitano, abbia avuto l'esigenza di rilanciare alcune tematiche per loro apparentemente forti, ma che non sono finalizzate minimamente né alla tenuta del governo né al proseguo della legislatura. Per cui lei non vuole aggiungere un altro aggettivo dopo boiata e puttanata? Non è che l'hanno detto no, due personaggi per due personaggi? Folklore, più chiaro di folklore così, che ne so, si può dire. Me, folklore vuol dire tanto, insomma, lo sa anche la Lega che sono, se diventerebbe assolutamente impossibile. Uno spostamento dei ministeri, qualche dipartimento si può fare, ma insomma loro lo fanno perché devono dare della nuova linfa al loro popolo, al famoso popolo del Prato di Pontida. Senta, io non sono di solito molto uso, non so se si possa utilizzare questa espressione, non è mia abitudine, insomma, compulsare le intercettazioni telefoniche che escono sui giornali. Cioè, male, penso, no, sì, le leggo anche distrattamente, penso che il vero scandalo sia questo, che siamo poi costretti a parlare di intercettazioni, di un'inchiesta ancora che non dovrebbero essere pubblicate per legge, è un'inchiesta, meglio pubblicarle, le leggi vengono violate costantemente, meglio pubblicarle che tenerle nel cassetto, cara onorevole. Secondo me è meglio non pubblicarle, no, soprattutto quando sono finalizzate assolutamente al nulla. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere questo, c'è una sorta di sputtanamento generale e, sì, e vabbè, lasciamo perdere, sarebbe un discorso molto lungo. Su questo siamo assolutamente però tutti scusi d'accordo. Scusi e perché sul fatto che ormai a parlare al telefono siamo sempre in tre e questo è un problema che gli italiani si devono porre. Ecco perché dipende, lei, solo parlava, non commette reati, lei parlava al signor Bisignani della questione della Boccassini, lo vuole spiegare al grande pubblico della Zanzara una volta per tutte, perché qualcuno avrà sicuramente letto, qualcuno all'ascolto in questi giorni quello che è uscito sui giornali. Perché lei parlava sono al signor... tanti quelli che l'hanno letto, ma appunto. Guardi, ho cercato di spiegarlo nella maniera più semplice possibile, perché parlavo con un amico, questo se permettete può essere una questione privata. Ecco, da quanto poi tempo se... è amico di lei, amica di Bisignani? Da 3-4 anni, non mi ricordo neanche. Anche, ma detto ciò, ma nella politica, scusi un attimo, ma ce lo può definire? No, sapere perché uno conosce una persona. Ma chi è Bisignani? Mi dia un aggettivo per descrivere cosa fa esattamente il signor Bisignani. Che io sappia, un imprenditore e anche un intermediario di affari. Che io sappia, poi intermediario di affari. Cioè, ma è vero che è più potente? Alcuni dicono è più potente di Berlusconi. Ah, guardi, a me viene da sorridere quando vedo queste cose. Col poco che ho potuto vedere io è sicuramente una persona molto affabile, molto gentile, disponibile sempre con tutti, cosa assolutamente rara nel panorama politico italiano, sia di mediatori che di politici autentici, perché purtroppo, come ho detto su Repubblica, anche se non era spiegato molto bene, c'è una grande volgarità in giro. Ecco, ma scusi, cosa vuol dire mediatore? Di vista, sì, assolutamente si distingue. No, ma io non ho capito una cosa, Biancofiore. Perché la politica ha bisogno di un mediatore? Qual è la, perché la politica perché deve... Perché spesso e volentieri la politica non ascolta, e magari ci sono persone che possono ascoltare invece di, capisci? Mm. No, non cioè, perché lui Bisignani, secondo lei Bisignani è utile alla e politica. E poi voglio dire, e voi non avete un amico al quale vi rivolgete, se sapete che un amico ha un altro amico, non vi ci rivolgete, sì, se sì, lo chiede no. agli italiani. No, se faccio un politico no. Tutto ciò? No, se ma faccio... secondo me non esiste nessun reato, questa è la base. È da capire, no, da quello che io voglio non capire. Non so se esistono reati, ma se ho una. Se devo io, Parenzo, se devo assumere una colf, chiedo a un amico, dico scusa, conosci una colf brava e di fiducia? Certo. Però un conto è il rapporto privato, un conto è il ruolo che ha un politico che deve agire per il bene pubblico. Quindi ci sono delle cautele diverse che tra rapporti tra privati. Ma no? Io non credo, e poi non sta a noi accertarlo, ma non credo che siano state violate queste presupposti. Per questo le chiedo che fa Bisignani. Accertarlo e lo sta facendo. No, certo, certo. Per questo le no, però voglio dire. È curiosa questa io cosa. Io stavo semplicemente comunque raccontando un gossip che mi era venuto da Bolzano, che con Ischia non c'entra assolutamente nulla. Come ho detto, sfido chiunque sì. a tirar fuori la parola Ischia dalla mia bocca. Sono appena state diffuse adesso, sempre invece della, sempre come dire, a sottolineare quanto viene rispettata la legge in Italia, che appunto non si possono pubblicare le intercettazioni di un parlamentare. Ma io sono tutto sommato contenta che siano state appena in questo momento diffuse, perché si vede che era tutto uno scherzo, dalla battuta sul calcio a tutto il resto, insomma. Mm. In uno scherzo in che senso, scusi? Nel senso che stavo chiacchierando, gigiogiando al telefono con un amico. Ah, quindi lei dice se chi ha ascoltato ne ha, lo ha capito dal tono della ma voce che lei ha usato. Ma poi una domanda, non vi capita mai di spettegolare su qualcuno, anche qualcuno di noto, che può essere un PM, un imprenditore, ogni un giorno sulla vita privata magari delle persone, dei politici, eccetera? Ogni giorno. Purtroppo lo stavo facendo anch'io, perché un amico di Bolzano mi aveva raccontato questo particolare. Non c'è assolutamente nulla, infatti se qualcuno andrà a vedere il prosieguo delle telefonate o di altri magari anche pedinamenti o cose varie, non... non può trovare nulla, cioè, da lei stava facendo, per collegare sì. la notizia del giornale a quello che io dicevo. Cioè lei stava riportando sulla Boccassini un pettegolezzo ascoltato da un suo collega del PDL a Bolzano, sì, giusto? Che poi dalle pagine del Corriere della Sera di ieri si evince che invece la cosa di Ischia veniva dalle parole di Sgarbi in televisione. Questo riporta il Corriere della sì. Sera, nero su bianco, quindi ancora una volta mi scagiona eventualmente io fossi rea di qualcosa, anche se francamente veramente sono incredula rispetto a quello che sta accadendo, perché veramente uno non può più neanche dire una parola in più al telefono, perché viene intercettato, viene interpretato male. Sì, sì. Allora, tra l'altro, sulla questione di Bisignani, io voglio dire una cosa, poi do la linea alla pubblicità. Bisignani è un uomo che si occupa oggettivamente di relazioni istituzionali. Non si sa bene il ruolo quale sia, perché in Italia questo ruolo non è ben definito. Comunque, perché in teoria era un dirigente di non America, so che cosa, di una società. Lui viene chiamato lobbista. Io non credo sia un lobbista, però in America sono istituzionalizzate. Ecco, ma lo conoscono tutti nella politica. Bisignani è una persona conosciuta tutti, da tutti, a destra, a sinistra, centro, a destra, a sinistra. Tutte le persone. Si può dire, brutto a dirsi, ma insomma tutte le persone che più o meno hanno un ruolo in questo paese, insomma, sì, lo conoscono. E chiedono consigli. E chiedono... Ma consigli, non favori, consigli. Vabbè, consigli anche favori, perché lui conosce dire. Tutti e quindi ovviamente quando hai bisogno di qualcosa, per quello che ho potuto vedere, perché sì. io per mia fortuna non ho mai avuto bisogno di niente da lui, ecco che la beh, gente... Pare che ma scusi, no. perché scusi, dice così? Che lei, male ci sarebbe? Pare che lei abbia cercato un canale con Bisignani nel partito per evitare... Questo Repubblica non è andata così. Non è me vero. L'ha presentato Daniela Santanchè nella speranza che lui, essendo amico di Verdini, potesse intercedere nei miei confronti presso Verdini, che non ha mai avuto un'ampia simpatia nei miei confronti. Va bene, traffico. Intanto io c'è un ordine di arresto per bancarotta fraudolenta per Lele Mora, che pare che sia... Okay. Sta per essere seguito in questi minuti per bancarotta fraudolenta. Mi devo dispiacere? Non lo traffico. So, no, ma nessuno ti chiede né di dispiacerti né di esultare. No, infatti. Traffico. Quanto sei grande Roma. Bene, 800 24 00 24. Vogliamo dire una parola definitiva, caro Parenzo, su questa vicenda dello spostamento dei ministeri? Una parola direi definitiva, io la vorrei da te, che hai seguito una parola partita. Definitiva la possiamo dire ai nostri amici della Zanzara: non cambierà nulla, non cambierà nulla. Signor Lombardo, invece, governatore della Sicilia, del regno delle due Sicilie, parla. Spiegaci perché nella tua regione i dipendenti costano 12 volte il Veneto, Lombardo! Oggi me sembra... La Zanzara, 800 24 00 24. Signora Biancofiore, è vero che Berlusconi era preoccupato per la sentenza sul lodo Mondadori, molto più che per la vicenda di Pontida? Ma La vicenda di Pontida non lo preoccupava sul piano politico, semplicemente perché, come ieri ha dimostrato perfettamente Bossi, la loro amicizia, la loro realtà, lealtà reciproca è talmente conclamata, tant'è che Bossi ieri lo ha detto apertamente. No? Però mica tanto, gli ha detto che non sarà il candidato premier. Molto chiaramente, guardate, io l'ho seguita tutta Pontida, ha detto non che dai giornali, un ho seguito conto... proprio su Rai News 24, ho seguito tutto. Ha detto che un conto è la leadership e un conto è la premiership. No, mi dispiace contraddirla. Addirittura nel 2013 potrebbe esserci ancora Berlusconi, e che tutto quello che è stato fatto per il nord grazie a Berlusconi se non ci fosse stato, però Berlusconi è preoccupato per il Danè più che per la questione politica, o no? Ma no, è Danè, non è una questione di Danè, è una delle più grandi aziende italiane che ha fatto la storia di questo paese e della pluralizzazione dei sistemi mediatici. Non, è detto, quindi, speriamo che non chiuda, naturalmente. Speriamo di no, mi auguro di no, però voglio dire, chi di voi ha 750 milioni di euro in contanti? Ecco, neanche io, neanche voi, ma penso la stragrande maggioranza delle aziende nel paese. E quindi, ma lui che ha detto? C'è l'espressione. Ricordiamoci che Berlusconi dà da mangiare a 40.000 persone quotidianamente. Poi andiamo a chiederlo a loro se effettivamente Mediaset chiude. Sì, lavorano queste persone naturalmente. Non è lavorano che... naturalmente, certo, ma se l'azienda viene liquidata, se viene chiusa, se per qualche motivo perde titoli, eccetera, eccetera, evidentemente queste 40.000 persone e tutto l'indotto familiare rimane per strada. Scusi un attimo. Ecco, vorrei che questo fosse presente anche a coloro che insomma ci giocano su questa faccenda. Cioè, il giudice, scusi un attimo, il giudice che deve decidere, il giudice che deve decidere su questa cosa dovrebbe tenere conto di questo, secondo lei? Ma no, questo non c'entra niente con le carte giudiziarie, lo dico che il sistema mediatico, che magari a volte sbeffeggia il Presidente del Consiglio, dovrebbe tenere conto invece di questo e avere anche una responsabilità maggiore, perché i media hanno una responsabilità enorme in questo paese. Scusi un attimo, io però le voglio chiedere una cosa, la questione di l'espressione usata esattamente da Berlusconi quando vi siete incontrati sulla sua preoccupazione, qual è esattamente? Cioè, cosa ha detto? Adesso non è che le voglio che io mi riferisco. Io gli ho chiesto come stava, semplicemente lui mi ha detto sto bene, ho detto ma preoccupato, gli ho detto preoccupato per queste inchieste, preoccupato per Pontida, eccetera, e lui mi ha risposto no, sull'inchiesta di Letta sono sereno, un gentiluomo, un galantuomo, quello che avete letto che ho dichiarato, per quanto riguarda Pontida l'asse con Bossi è fermo, è fortissimo, Bossi l'ha dimostrato, ha detto sono preoccupato per l'azienda perché evidentemente insomma la sentenza Mondadori... Cioè me la vogliono far chiudere, cosa ha detto? Non ha detto così, non me la ricordo l'espressione precisa, francamente non registro tutto quello che provo, dice il Presidente, però la sostanza era quella. La sostanza è giustamente, a parte averci lavorato tutta una vita, a parte ovviamente aver dato un futuro ai propri figli, è molto preoccupato questo, ma è una giusta preoccupazione. Mediaset è un asse portante del nostro paese. Senta un attimo, scusi un attimo, il gruppo del PDL a Bolzano la vuole cacciare, se non l'ha già fatto? Perché attenzione anche qua, bisogna avere sempre molta attenzione nelle cose. I gruppi PDL sono due purtroppo in comune a Bolzano, uno che fa parte ovviamente capo all'asse di Gasparri e uno che fa capo invece a Berlusconi. Il mio gruppo PDL si chiama Popolo della Libertà Berlusconi Presidente, il suo si chiama solo Popolo della Libertà. Quello che ha chiesto in maniera assolutamente becera e maligna, l'espulsione dal Consiglio Comunale, che non fa però è vero che lei 56 neanche l'opposizione avrebbe mai chiesto una cosa del 56 genere, assenze ingiustificate, è vero o no? Prego? È vero che lei ha 56 assenze ingiustificate? È vero, perché purtroppo non mi sono mai state notificate, non sono tanto bischera, tanto per dire una parola. In che senso non è stata notificata? Perché un motivo, perché non mi sono state notificate. Cioè, ma lei ci è andata o no al Consiglio Comunale? Ho visto, evidentemente. Ma lei, però non c'è andata per 57 volte? Se stavo alla Camera non potevo andare in Consiglio Comunale. Non c'è andata. È molto difficile essere uni e trini in questo paese. Ma perché non si dimette dal Consiglio? Del Consiglio. E perché non si dimette? Ma ancora, come dire, non sono come ma perché non si dimette? In questa maniera. Perché non si dimette dal Consiglio Comunale se non ci può andare? Perché è molto importante per la tenuta del gruppo. Ma se non ci può andare? Perché quando ci posso andare ci vado. Quando ho avuto la possibilità ci sono andato. Una tanto. La saluta Gasparri. Due presenze. No, attenzione, poi voglio ricordarvi che io sono quella che ha preso più preferenze. C'è il giornale radio, la chiamo dopo, il giornale radio. Qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, a Milano, nella civilissima Milano. E vorrei ricordare, cosa stai leggendo ancora? Sto leggendo un articolo dell'amico Sergio Rizzo, che sul Corriere Economia ha pubblicato uno schema con dei dati molto interessanti, dove si dice che la Sicilia spende per i propri dipendenti ben 12 volte quello che spende la regione Veneto. Lombardo, non ti ho ancora sentito telefonare alla Zanzara per spiegarci. Lombardo, dal nome così bello, ma che fa cose mefitiche in Sicilia. 12 volte il Veneto, il costo dei dipendenti. Vabbè, non è che sia tutta colpa di Lombardo. Signor Lombardo. Non ora, è tutta colpa di Lombardo. Ora c'è lui. Sì, d'accordo. Telefoni, Lombardo. Telefoni. Va bene, mettiamo i titoli del TG3 con la signora Maristel Polanco. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Ministeri al nord, PDL spaccato, firme ordini del giorno contro la richiesta di Bossi, Calderoli ministeri anche al sud, Bersani dal Carroccio, accattonaggio politico. Napolitano in Libia, nostro impegno restare schierati, sui rifugiati non vanno respinti, ma la Lega insiste, vale ciò che è stato detto a Pontida. Domani e mercoledì la verifica, stasera vertice a Palazzo Grazioli con Berlusconi, Maroni, l'Aula deciderà le sorti del governo. Due ore di interrogatorio per Luigi Bisignani davanti al GIP di Napoli, Gianni Letta ai magistrati, lui amico di tutti, possibile mi abbia parlato dell'inchiesta. Crisi greca, l'Italia non in pericolo, dopo l'allarme Juncker corregge il tiro, rinviati gli aiuti ad Atene, calano le borse, Marcegaglia manovra subito. No assoluto a qualsiasi forma di respingimento di migranti, nella giornata mondiale dei rifugiati l'alto commissario ONU Gutierrez boccia l'idea della Lega. A Bologna le lacrime di Beppe Signori in conferenza stampa, non faccio scommesse illegali, contro di me un massacro mediatico. Eccoci, eccoci, 800 24 00 24, siamo sempre in collegamento con Michela Biancofiore del PDL. Ancora del PDL, signora Biancofiore, oppure a molla? Poco, forse. Ancora, ci dia, lei è passata da forse esco, probabilmente esco, insomma, no, si no, de... no, no, guardi, io sono una delle persone più coerenti che esistano. Beh, in questa cosa un po' di incertezza italiana. No, ma siccome io ho sempre detto una sola cosa, che prima di fare qualsiasi gesto avrei parlato col Presidente del Consiglio. Ci ha parlato, appunto. L'ho visto due volte, ma mi ha parlato solo di cose nazionali. Purtroppo di cose locali, anche forse un po' furbescamente, non me ne vuole parlare. Ah, purtroppo... furbescamente non le vuole parlare. Ma lui è uno troppo forte anche da questo punto di vista. Lui per evitare il problema la prende da un'altra parte. Per evitare grane. Anche perché il problema non è tra me e lui, come tutti sanno, anzi. È tra lei e il signor Gasparri. Lo sai che ha detto qua? Non è soltanto Gasparri, è l'establishment. Non è Gasparri è semplicemente la punta dell'iceberg. Ma lo sa cosa ha detto Gasparri? Gasparri fa il bello e il cattivo tempo nel nostro partito perché qualcuno gliel'ha concesso. Lo sa che cosa ha detto Gasparri qui alla Zanzara? Ha detto sì, che lo so che l'hanno querela. Sì, vediamo chi parta prima le carte in tribunale. Che il PDL nel 2008 l'aveva già delocalizzata da un'altra parte. Mi aveva delocalizzata, sì, certo, mi aveva delocalizzata per via del suo del suo riferimento, chiamiamolo così, locale, che voleva fare il voleva fare il commissario della mia Forza Italia, che era il partito col massimo dei voti. Che guerra che c'è, mamma mia, come lotta la signora White Flower. La White Flower, basta vedere i dati, sa, la N guidata dal suo sì. Ometto di fiducia, ometto di fiducia, sì, aveva 22.000 voti nel 2006, la mia Forza Italia ne aveva 30.500, questi sono voti, sono ascritti al Ministero degli Interni. E non si può, come scusi, dire, signora Biancofiore, comunque, a Gasparri secondo lei è un ometto, cioè ci sono come possiamo definire un ometto, un piccolo ometto, un ometto, lei ha detto un ometto. No, io ho detto il suo ometto, mi riferivo all'altra persona, non a lui. Come no? L'ometto di fiducia. Il suo ometto di fiducia. Ho capito. Con molta chiarezza ribadiamo le cose. No, per carità, per carità. Che è un personaggio che insomma in Alto Adige tutti conoscono. Però lei ancora non ha deciso, ma quante possibilità ci sono? No, io ho deciso, soltanto che ovviamente prima di farlo devo comunque sentire il Presidente del Consiglio, visto che è l'unica autorità che io riconosco. E dove va? Esce dal PD, dunque lo possiamo dire? Esce dal gruppo misto. Esco definitivamente. Però non è che esco dalla maggioranza, questo no, questo si è capito. Questo esce dove va? Tra i responsabili, con Scilipoti? No, non ci penso proprio. No, quello zero. Beh, proprio. Non è mica una... Vabbè, non è un crimine, appoggiano il governo, sostengono il governo. Ma non è che non è un crimine, non ha nessuna condivisione politica con loro. Perché? Che cos'ha contro l'olismo? Cos'ha contro l'olismo lei? Non capisco. L'olismo? Giustamente non sa che cos'è, perché sa cos'è l'olismo? Perché Scilipoti è uno dei principali sostenitori dell'olismo in politica. No, ho capito, sì, perché lui è omopatico, tutte queste cose qua. Sì. Comunque, lei dove va? Nel gruppo misto? Io contro i responsabili, anzi, devo dire che se siamo ancora al governo e se c'è una maggioranza bisogna solo che ringraziarli. Però io non vengo da storie completamente diverse come loro. Io ho una storia molto forte, molto profonda, dal 1994 in Forza Italia. Purtroppo vorrei ritrovare nel PDL quelli che erano i valori, l'aspetto molto berlusconiano che aveva ovviamente il mio partito, non lo trovo, infatti il partito perde. Dunque esco dal PDL e vado nel gruppo misto? Nel gruppo misto, sì, nel gruppo misto. Prima però devo parlare col presidente. Con Micichè no, con Micichè no. Certo, in quel gruppo lì, con Micichè, con Urso e Ronchi se verranno, quel gruppo di dissidenti che hanno ovviamente una motivazione per essere dissidenti. No, con Forza Sud no, con Forza Sud no. Con Forza Sud, non è Forza Sud il gruppo che si va a costituire. No, quel gruppo parlamentare Forza no. Sud, quel gruppo... No, si potrebbe chiamare così, perché un gruppo parlamentare che si costituisce deve essere fatto da 20 persone. Certo, non c'è dubbio. Quindi, non so come si chiamerà, magari si chiamerà comunque, Forza Italiani. Comunque c'è un giorno in cui esce dal PDL, dopo aver parlato col presidente avrò questa... Quando gli parlerà? Comunque è sicuro al 100%, questa decisione è presa al 100%. Sì. No, gli ho detto un'altra cosa, ho detto dopo aver parlato col presidente deciderò. Non so se è chiaro questo. Ho capito, però lei dice... Che io stia costituendo un nuovo movimento che ricorda l'ex Forza Italia, avendo però la sintesi con anche Alleanza Nazionale. Forza Nazionale, non è un caso che si chiami Forza una sintesi tra Forza Italia e Alleanza evidentemente Nazionale. Evidentemente non è un mistero ormai, questo essere chiaro. Vabbè. Credo che ci sia l'opportunità di raccogliere, voglio dire, un consenso che abbiamo perso. Lei dice. Di raccoglierlo, almeno che poi Berlusconi non dica rifondo io. E allora siamo tutti in trepidante attesa, onorevole. Quindi... Me lo auguro anch'io, perché è il paese che aspetta da lui un colpo. Scusi un attimo, però io le voglio chiedere una cosa, ma alcuni ascoltatori me lo chiedono. Lei i dati, lasciamo perdere la battaglia politica a Bolzano, che interessa poco gli ascoltatori che ci ascoltano in Sicilia o altrove. 56 assenze ingiustificate, 4 giustificate, 2 presenze. E lei ancora non si dimette dal Consiglio Comunale di Bolzano, no, ma perché? Non mi dimetto, glielo ribadisco, non so anche in lingua dirlo. Forse in italiano. Ho capito, ma uno che non può fare il consigliere comunale. Non mi sono mai state notificate le convocazioni come facevo. Ho capito, come non notificare le convocazioni? Uno non lo sa quando è convocato. Non sono state notificate, sono state lasciate nella casella del Consiglio Comunale invece che alla mia residenza. E quindi non potevo giustificare. Scusi, ma gli altri come fanno a saperlo? Non mi dimetto, l'ho saputo perché abbiamo fatto adesso ovviamente una ricerca, e questo è evidente. Ho capito, ma agli altri invece vengono notificate bene, a lei no? Sì, evidentemente sì, perché io avevo dato un domicilio stando a Roma, avevo dato il domicilio. Vabbè, uno è consigliere comunale, avrà i suoi collaboratori o qualcuno che chiama e dice: scusi, quando è il consiglio comunale? Assolutamente sì, ma infatti questo doveva essere fatto e non è stato fatto. Cioè, non mi dica che le 56 assenze non è... Ma non mi dimetto, 56 assenze, ribadisco, è inutile che cercate di gettarmi addosso dell'assenteismo. Non poteva essere diversamente, visto che io dal martedì al giovedì sono alla Camera. Appunto, però non è un obbligo. Non è che però il medico... Perché non si dimette da consigliere comunale? Ma perché questa domanda non la rivolgete ai tanti sindaci? La rivolgiamo anche a loro. A tutti coloro i quali hanno i doppi incarichi. Non a me, perché io, quando posso, sono sempre presente. Non lascio il Consiglio Comunale semplicemente per due motivi. Uno, perché questo permette al gruppo di esistere, e che non è cosa di poco conto. Seconda cosa, perché quando posso io incido politicamente. Terza cosa, non secondaria, capisco che molto spesso e volentieri del popolo la politica e i media se ne fregano, scusate l'italiano. Sì, ma il popolo vuole anche che lei partecipi. Io sono la più eletta in quel Consiglio Comunale. Ho capito, comunale, ma uno è eletto per partecipare al Consiglio Comunale, non per non andarci. E non ci posso andare, non lo sanno gli elettori, quando mi hanno votato lo sapevano, no, io facevo anche il deputato. Vabbè, comunque. Quindi, poi a maggior ragione, siccome mi sono fatto un torto e fui candidata in campagna, a maggior ragione io devo tenere un piede nella terra dove io sono stata eletta più di una volta con le preferenze. Ho capito, ma uno poi ci deve andare se viene eletto in un posto, altrimenti se uno non ci va. Quando io posso, ci vado, stia tranquillo. No, perché siccome questo dato mi sconvolge, questo dato poi, a parte che va approfondito, perché io, a me non risulta questo dato qua, ma questo è il dato che è stato dato sempre da quella fazione politica. Ma no, sarà un dato ufficiale, sarà un dato di Gasperi. Il dato ufficiale è sempre ben poco. C'è lo zampino di Gasparri. No, anche qui no, è impossibile, dai. Tant'è che stiamo arrivando ad una mediazione con il comune, è impossibile potersi giustificare se non ti arrivano le convocazioni. Senta, volevo chiederle questo, dietro l'11 settembre c'è Gasparri secondo lei? No, assolutamente no, gli date sempre troppo importanti. Ma è lei che ha aperto questo fronte. No, ma assolutamente, non c'è Gasparri dietro. Grazie, buona serata. Grazie. Ce l'annunci quando esce al PDL così ufficialmente. Dove siamo? Siamo con Gigi da Padova. Buonasera a tutti, siete bravissimi. Ciao Gigi, come stai? Ciao, ciao, ciao. Dica. No, io impazzisco. Io ho fatto l'amministratore per 25 anni, ho fatto 5 assenze, porca puttana. 56 assenze ingiustificate. Ah, ma io so chi è questo. Ho fatto l'amministratore, ho fatto il vice sindaco 15 anni, 10 anni di consigliere comunale, 5 assenze in tutti i 25 anni, e questa è stata a casa un anno a grattarsi la farfalla. Ma robe da matti! In un consiglio comunale come Bolzano. Ma scusami, ma ti sito Gigi Barichello? No, sono Davide. Gigi, ma chi è? Barichello! Chi è? Clamoroso! Chi è? Gigi Barichello! E ma Barichello, so chi è. Ma in Veneto è il numero uno Barichello. È un ex comunista PDS DS che suonava la chitarra magnificamente, faceva un casino alle feste, era simpatico, era amato da tutti, era un comunista amato da tutti. No, ma questo da Biancofiore non è uno scandalo, secondo te? Dillo. Signora Biancofiore, dalla Zanzara le arriva una richiesta precisa dopo 57 giorni di assenza. 56, comunque, vabbè, uguale. Chiedo scusa, ma guardo già al futuro perché un altro giorno arriverà presto. Quando uno ha 56 giorni di assenza, ci sono solo due parole da dire. Due! A casa! A casa! Giusto, Gigi? Guarda, il consiglio comunale a Bolzano, in una grande città, lo si fa una volta alla settimana, di solito il lunedì. E questa non è mai andata per un anno. Ma un consigliere comunale deve vergognarsi! Quando arriva a Trento deve tornare indietro a piedi! A Bolzano, comunque. Ma no, prima di arrivare a Bolzano. Ah, Trento, lei dice. Scende e deve tornare a piedi, insomma, no. È una roba da matti. E allora invece sullo spostamento del ministero, cambiando tono, bravissimi, sì. Lo spostamento del ministero, scusa, ma perché se ne dobbiamo spostare quattro devono dare quattro in Lombardia e non anche un paio? Non mi dica Gigi che ne vuole pure uno in Veneto, perché mi no, metto lì. Ma allora non ne voglio neanche uno nel Veneto. Se la cosa funziona così, allora domani faccio una petizione di firme, perché dico a Zaia che gli assessorati di Venezia se ne diano due a Padova, due a Treviso. Decentramento uno... pure regionale. Vogliamo il decentramento dentro una regione. Ma perché devo. Resti con noi, Gigi, resti con noi. Devo dare la borsa. 800 24 00 24. Eccoci, 800 24 00 24. Parenzo, dove sei? Pronto. Sei già in taxi? Sono nel taxi direzione Lombardia Channel con due L. Bene, sempre Gigi, che in realtà è stato 15 anni vice sindaco del comune di Limena, in provincia di Padova. Limena, la mia ignoranza. No, vi vuol dire, ma pensavo, no, che ci sono anche delle persone molto serie. La saluta un caro signore che si chiama Diego Volpe Pasini. Ciao Diego. Contracambio, anche Diego è molto fluttuante, non sono mai. Come fluttuante? Che significa fluttuante? Diego, ho avuto il piacere di scambiare con lui alcune considerazioni così, ma non lo sai mai per dove prenderlo, perché senza manico, un colpo da una parte e un colpo dall'altro, è difficile prendere Diego. È un uomo libero di pensiero. È un uomo libero di pensiero, Diego. Vabbè. Dicevo prima che, per esempio, rispetto alla signora Biancofiore, Bitonci, per esempio, che è sindaco della Lega a Cittadella, certamente non ha fatto tutte quelle assenze là, ma perché è una persona seria. Quando una persona prende due incarichi, se ha la forza li sostiene, altrimenti ne molla uno, insomma, no? È normale, Parenzo. È una roba normale, insomma, no? Mi pare una considerazione fatta in modo pacato e civile. Io non aggiungerei altro. Se non due semplici parole, caro Cruciani, a casa. A casa da dove? La signora Biancofiore, dal consiglio comunale. Dottor Cruciani, lei sceglierà senz'altro di lasciare il consiglio comunale perché non prende quelle 11.000 bambine che prende, o 12 a fine mese. Bambine, che significa, tanto per non essere fraintesi, soldi, insomma, da ne. Soldini. Sì, sai, perché quelle lì fanno luce anche di notte, hai capito? E allora, quando invece si vuole, perché qui, oltre che fare tutto questo, vogliono passare anche per dei martiri, per della gente che si è donata al popolo e per cui in nome del popolo non può rinunciare a tutta quella botta di privilegi che hanno, no? E allora è questo. questo che fa incazzare la gente, e la gente non è più veramente, insomma, no? La gente arriva che dice: ma io non sono uno scemo, no? Perché poi se tu vedi che cosa fanno questi, ti rendi conto che l'intelligenza media è una cosa che è straordinaria, insomma, no? Perché uno, se si mette un po' di buona volontà, per il 90% di quei signori che sono al Parlamento, ci riesce anche tu, insomma, no? Perché, questo sicuro. Perché, ecco, e allora... Scusi, signor Gigi, lei come ha visto Berlusconi, Bossi dal palco ieri a Pontida? Come l'ha visto? L'ho visto molto male. In che senso, scusi? L'ho visto intanto privo di carisma. Ho visto una grande base innamorata di questo leader che anche in questo momento non può non volerli bene. Però cade anche... un leader cade, una stella cadente ormai. Guarda, vorrei... no, perché il paragone non è giusto, ma quando io ero ad ascoltare l'ultimo discorso di Enrico Berlinguer sul palco in Piazza delle Erbe, quando gli è venuto male... Sì, e beh, adesso gliela sta tirando a Bossi. No. Ma provavo, che gli dicevo io: smetti Enrico, smetti, che comunque ti capiamo, non hai più la forza, insomma, no. Ecco, io credo che la base della Lega, che è una base diretta, che è una base pratica, perlomeno la base, i parlamentari... ha bisogno di un altro capo, dice lei. Ha bisogno di avere un interlocutore che li rispecchi anche da un punto di vista operativo, da un punto di vista della dinamica, è così. Ma poi loro si sono incuneati adesso in una situazione che è difficilissima, insomma. Ah, non c'è dubbio, non c'è che dubbio. Che è difficilissima, per cui... Se prima il tono della voce, la dinamica, l'energia poteva anche supplire, venendo meno questa, con il ragionamento arrivi che vai a chiedere i ministeri, che vai a chiedere i ministeri per la Lombardia, il ritiro delle forze armate, ma non parli di occupazione, di aumento di salari, di una presenza più importante, più legittima per i produttori di latte, per i contadini nel panorama europeo. Perdi di vista queste cose importanti che sono state la fortuna della Lega, insomma, no? Perché adesso la gente che l'ha votata va all'incasso, e se l'incasso non arriva nel Veneto, qui c'è la gente che lavora 13 ore al giorno, certo. a me ha fatto da ridere, dottore, permette che le dico questa poi mi dica. Quando Bertinotti ci ha mandato a casa, che avevamo un governo straordinario con l'appoggio di Rifondazione Comunista. Beh, adesso, governo, governo straordinario, adesso, cioè, no, si potrebbe discutere. Il primo governo Prodi. E ci ha mandato a casa sulle 36 ore lavorative qui in Veneto. Quando è mercoledì mattina alle 10:30, le hanno fatte tutti. Le hanno fatte tutte le 36 ore, per cui è stata veramente una follia quella, insomma, no? Mitico Gigi, mitico, grazie. Arrivederci. Ci chiami presto. David, dove sei? Sono in taxi, esattamente dove siamo posizionati, direttore. Lo sai che dopo il tuo sfogo, contro il tuo sfogo basato sull'articolo di oggi di Sergio Rizzo nei confronti del presidente della Regione Sicilia... Basato sull'articolo di Sergio Rizzo, ripetiamolo, apertis verbis. Vabbè, ho capito, adesso non ti giustificare, però dopo il tuo sfogo precedente ha chiamato lo stesso Lombardo, che adesso... E stiamo cercando un po' di metterci in collegamento, perché ha detto che si poteva chiamare, poi adesso... Adesso c'è qualche difficoltà, Sentiamolo. Però io Lombardo, sentiamolo. Io lo sento sempre con grande piacere, il governatore Lombardo. Eccoci qui. Signor Lombardo? Sì, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, sì. Non c'è male, ce la caviamo. Eccoci. Combattiamo. Come dei leoni. Come l'ha visto Bossi ieri sul palco? Ma per la verità, lui ha detto delle cose, ma poi a quanto pare si tratta di carte scritte. E quindi non si può giocare, se non ci sarà il trasferimento dei ministeri e se non ci sarà la riforma fiscale, dovrebbero rompere il giocattolo. Ma lei un ministero a Palermo non lo vorrebbe, no? Ma guardi, se dobbiamo disgregare l'Italia, per carità, mettiamoci d'accordo, dopodiché piuttosto che pigliarci ministeri a Palermo, intraprendiamo ciascuno la propria strada. Cioè, come la definisce lei questa cosa qui? Cioè, ma la definisco una buffonata, una farsa? Ma la definisco come l'anticamera della crisi di governo. Perché ma questo seriamente? Non credo, Questo detto seriamente, ma siccome credo che questo impegno possa essere mantenuto, e cioè che il governo, pur di sopravvivere, porti a Milano 2, 3, 5 ministeri ora leggo dalla Corte Costituzionale. Dopodiché, se la promessa o la minaccia della Lega è seria, io credo che lo sia, la Lega dovrebbe staccare la spina, anche perché se non la stacca, chiaramente perde di credibilità. La leadership perde di credibilità con gli aderenti, con gli appartenenti, con i militanti e con gli elettori. Quindi, allora, Sergio Rizzo, dov'è Rizzo? Pronto? Ciao Sergio! Ciao! Dove ciao. Ti trovi? Sono in campagna, in un posto bellissimo. In vacanza? No. No? No. Però sono in campagna, io vivo anche in campagna. Bene, beato te. A lavorare, ciao Sergio. Allora, com'è questa storia di questo paragone? Si può fare innanzitutto questo paragone su cui Parenzo si è arrabbiato moltissimo leggendo di stamattina? Ma si può fare, tutto si può fare. Io ho precisato che le regioni a statuto speciale hanno dei compiti ulteriori rispetto a quelle a statuto ordinario, quindi è chiaro che un aumento di personale rispetto a quello delle regioni ordinarie si giustifica, sì. Ma dipende in che proporzioni, ovviamente. E no? La proporzione col Veneto dipende in che proporzioni. Questo poi, tra l'altro, io tutte le volte so che polemiche quando si portano questi numeri, ma non sono io che le sto parlando queste polemiche. Quello è un documento della Confartigianato, sì. Come ce ne sono tanti altri, quindi sono studi che si fanno, ma che portano a far riflettere. Non è una novità che alcune regioni hanno un numero di dipendenti enorme. Cioè la Sicilia spende per i propri dipendenti 12 volte il Veneto. Ma la Sicilia, la Sicilia spende tanto, spendono tanto anche le regioni autonome come province autonome, per la verità, che poi sono delle vere e proprie regioni come la provincia di Trento e quella di Bolzano, anche la Valle d'Aosta spende tanto da questo punto di vista, spende tanto anche in Friuli Venezia Giulia, ma la questione è un'altra, secondo me, non è la fredda analisi dei numeri su cui bisogna soffermarsi, piuttosto sul fatto che in alcune regioni, e questa, la Sicilia è una di queste naturalmente, c'è un elemento di clientela, chiamiamola così, non sono io a dirlo, sono stati scritti libri su queste cose, quindi la Sicilia sconta in parte anche questa cosa qui. Cioè, scusa, questo rapporto non è che tu dici numeri che già si conoscevano, questo rapporto di 1 a 12 rispetto, sì, al Veneto, sì, è qualcosa di abnorme o no? Nonostante, sì, il fatto che si abbiano funzioni in più, nonostante lo statuto speciale, sì, quello che è. Non c'è alcun dubbio che sia abnorme. Lombardo, è abnorme o no? Allora, io intervengo perché mi hanno avvisato di questo rilievo che è stato fatto nel corso della trasmissione. Sì, sì. Dopodiché poi vi prego, se c'è da intervenire per contestarmi, fatelo, perché ho sospeso una riunione di... Sì, no, perché... Allora, no, vi dico subito una cosa, quello che dite voi è proprio vero, cioè che non c'è dubbio che se io mi trovo 30.000 forestali, vi dico con molta franchezza che potrei benissimo governare i problemi dell'antincendio, della manutenzione dei boschi con un quinto di questi dipendenti, così come... Cioè i forestali, se fossero un quinto, sarebbe lo stesso? Sì, no, sarebbe lo stesso, sarebbe molto meglio, perché io riuscirei a governare il sistema dei boschi e risparmierei l'80% degli stipendi. La stessa cosa farei con i formatori, cioè con gli addetti alla formazione, che saranno 8-9 mila, e forse me ne basterebbero 1.500, il che vuol dire che cosa? Che io riconosco che abbiamo un eccesso di dipendenti da fare paura, però vorrei pregarvi di considerare semplicemente una cosa, sì, che questo mio governo, dopo aver deliberato il blocco delle assunzioni, io mi sarò insediato nell'aprile del 2008, già nel maggio, giugno, luglio, sì, l'ho fatto prima con la mia delibera, quando assommavo in me i poteri della giunta ancora non nominata, e poi con la giunta nel dicembre del 2008 ha fatto una legge per il blocco delle assunzioni. Rizzo, corrisponde? Da allora in poi, sì, c'è questa, certo, oggi avrò ancora, però sì, veda, i forestali, da 30.000 si saranno già ridotti a 28-27.000, perché parecchia gente sta andando in pensione, sì, perché io ho questa caratteristica, questa gente ormai ha un'età media che supera i 50 e i 55 anni, sì, sì, per cui ritengo che con questo blocco di assunzioni, se vigerà anche per altri 5 anni dopo la conclusione di questo quinquennio. Un po' si riuscirà a ridurre. No, un po' si riuscirà a ridurre. Quanto? Paradossalmente si passerà da 100 a 25, mediamente. Tenga conto che peraltro la mia regione ha un numero di dipendenti che saranno 16.000, che magari sarà tre volte più del Veneto o il doppio della Lombardia. 12 volte. E questo può essere connesso con le competenze in più che mi vengono dall'autonomia. È troppo ottimista, scusi un attimo Lombardo, Rizzo, è troppo ottimista Lombardo su questo? No, secondo me non è troppo ottimista. Io diciamo capisco che ci sia un problema e apprezzo moltissimo il fatto che il fatto che uno dica staremo meglio con un quinto di, per esempio, di forestali in meno. Sinceramente lo apprezzo il fatto che Lombardo riconosca che c'è un problema. E d'altra parte lui mi pare che questo non l'abbia mai negato, no? Il punto però forse è anche un po' più al di là. Per esempio, io mi domando se sia sensato che la regione siciliana abbia più di 2000, credo, mi correggerà Lombardo, dirigenti, no? Cioè, quindi non è soltanto il fatto che una regione oggettivamente con dei problemi come la Sicilia, che non è l'unica, poi guardate, perché la Campania e la Calabria non è che stiano molto meglio, sì. Attenzione. No, certo. Ecco, però dico, il fatto, cioè, confondere diciamo, sia pur criticabile, mettiamola così, sostegno a certe condizioni disagiate che ha una regione, no? Che viene dall'occupazione pubblica, sì, eccetera, con il privilegio, perché sinceramente troppi dirigenti. La cosa che fa arrabbiare è più che altro quella, non il fatto che ci siano tanti forestali pagati 800 euro al mese, ma che ci siano tanti dirigenti pagati migliaia di euro al Lombardo mese. Lombardo, si può mettere un freno a questo? Ma veda, io posso solo assicurare una cosa, che questi dirigenti ce li siamo trovati, non li abbiamo nominati. Il problema è che bisogna, no, io certo non posso decapitare la gente, non lo farei se lo potessi, né posso licenziarli, questo è poco ma sicuro. Mano a mano che vanno in pensione si tratta intanto di non sostituirli, di non rimpiazzarli, secondo si tratta di riqualificarli, perché il paradosso qual è? Che io sui 16.000 dipendenti della regione, più mettiamoci forestali che fanno parte, poi fanno capo ad aziende diverse, eccetera, avrò forse una cinquantina di avvocati, quando me ne servirebbero almeno 300. Cioè lei... E di commercialisti ne avrò un centinaio, mentre avrò centinaia e centinaia di ingegneri, architetti e geometri che sono figli di sanatorie per il terremoto piuttosto che per la sanatoria edilizia, eccetera, eccetera. Vabbè. C'è un altro problema, che è stata ingaggiata per un anno e poi di anno in anno è rimasta alla regione di sanatoria in sanatoria, poi giustamente ha preteso la stabilità. Sì, devo chiudere questa parte. Va bene. No, un attimo, una cosa sola, no. Lombardo, una cosa sola. Siccome il Partito Democratico, le faccio una domanda politica, le ha tolto la fiducia, almeno il Partito PD siciliano, leggo ieri, no, da qualche agenzia. Lei... Per la verità, guardi, io credo che forse non ha letto come stanno le cose. Loro addirittura mi chiedono, legga, di passare dal governo tecnico, io attualmente tutto fatto di tecnici non appartenenti a partiti, addirittura ad un governo politico in cui il Partito Democratico intende entrare. Che si chiude col governo tecnico, questo volevo dire, certo. Mi chiede di chiudere col governo tecnico. Col governo tecnico, vabbè. Grazie, a presto. Grazie a voi. 19:52, grazie Rizzo. Grazie. Ascoltatori, David, Marco da Monza, buonasera. Molto bene, hai visto che però funziona chieder conto alla classe politica, funziona, bene, molto bene. Marco. Sì, pronto. Dica. Sì, niente, ho telefonato perché sono veramente indignato per le parole di Borghesi, anche se comunque non mi meraviglio. È una persona veramente di uno squallido, perché arrivare a dire queste cose è solo davanti alla... Borghesi, cosa ha detto di squallido? Ieri, perché altre volte... Porcherie nei confronti dell'Italia ne dice sempre, e mi auguro che qualcuno qualche volta gli tiri veramente un sacramento in faccia e di conseguenza, ma non su un occhio, su entrambi, di modo che, voglio dire, non è possibile che una persona del suo ruolo possa arrivare a dire queste cose, veramente schifoso, secondo me è forse schifoso. Varrebbe la pena però riascoltare bene le parole e analizzarle, no? Ascoltiamo. Ma come si può analizzare niente? Quando uno dice no, dell'Italia non me ne frega niente? Cosa c'è da analizzare? Vuoi esaltarti con le parole di Borghezio, David? Per te sono una sorta di Gero Vital, una sorta di... A me di... Cioè, le trovo abominevoli in certi casi, ma in questo caso lo trovo anche divertente, cioè non mi offendo ma da italiano e da patriota italiano. Il suo ruolo con quello che prende, con quello che noi paghiamo, io mi auguro che trovi un terrone veramente di quelli doc e che gli spacchi la faccia sul serio, perché è veramente un Marco, spaccare la faccia, un cretino, mi dispiace. Grazie. Forse è meglio riascoltarlo un attimo, però, perché forse ragionandoci sopra, no? Siamo alla svolta dell'Italia, non me ne frega un cazzo, la Padania è più viva che mai, basta venire a Pontida. Sosteniamo la Padania perché l'Italia non conta un cazzo, via da Roma la drona, mai più Last for Rome, via da Roma, c'è Giove. Cos'è che non va bene, Marco? Vabbè, ma poi non va bene, è tutto che non va bene, per carità. Non si, però. Non si possono dire queste cose, perché poi tra l'altro è talmente meschino, perché non lo dice in Parlamento Europeo, perché non lo dice quando va al Senato, quando parla con tutti i parlamentari? Il problema è che lo dice proprio anche lì, questo è il problema, capito? E allora è da ricovero. E se lo dice qualcuno anche lo mena, europeo, se qualcuno lo mena sono contento, mi dispiace. Marco, cosa c'entra la violenza? No. Cosa c'entra? È un imbecille, uno che parla così un imbecille, e lo applaudono anche, quindi voglio dire. Va bene, grazie. Forse è meglio riascoltarlo per capire esattamente. Sei fissato, no? Tu ti serve come carica per la trasmissione. Guglielmo da Modena, buonasera. Buonasera. Io volevo fare un riferimento al decentramento dei ministeri. Io prometto di essere un leghista. Sicuramente non è una priorità, cioè per quanto mi riguarda. Per me la priorità, ad esempio, è che Lombardo e i suoi dipendenti se li paghi tutti da solo, senza intaccare i soldi della Padania. Che c'entra i soldi della Padania, scusi, Guglielmo? Che non se li paga quei soldi della Sicilia. I soldi per pagare i dipendenti provengono dalla Padania. Ma non è che provengono solo dalla Padania, provengono dal bilancio regionale, dal bilancio nazionale. Dal bilancio dell'Italia. Ecco, e chi è che paga il bilancio dell'Italia? Ma li pagano tutti il bilancio nord, dell'Italia. No, il nord. Ma che il nord? Non spese, è solo il nord, non diciamo stupidaggini, Guglielmo, non è che lo paga il nord il bilancio dell'Italia, lo paga anche il nord, in gran parte il nord, certo, perché contribuisce maggiormente, perché naturalmente i maggiori redditi sono al nord, ma cosa c'entra? Gli sprechi delle spese extra. Un attimo solo, devo dare la pubblicità. Resti Cruciani, che le passo un ospite pazzesco. No, aspetti, ho la pubblicità, chi è? Mandiamo la pubblicità, la quella è importante, quella è importante. Andiamo. Pubblicità. Siamo qui, sono le 20:00 24:00 24 per chiamarci in diretta. Carlo da Rimini, buonasera. Buonasera. No, eravamo ancora con Guglielmo, forse doveva concludere. Guglielmo. Sono ancora. Sì, che succede? No, sono ancora qua. Sì, dica. Per essere messo giù. No, niente, stavo parlando di quel riferimento di Lombardo e del fatto che comunque non è una priorità per noi il decentramento, però ne aveva parlato. Prodi nel 96, la Fondazione Agnelli l'aveva spalleggiato come un qualcosa di importante. Io volevo fare un riferimento al decentramento per quanto riguarda quello dell'agricoltura, ad esempio. Se fosse a Cremona o a Mantova, dove c'è una cultura agricola, sicuramente recepirebbe meglio le esigenze di quel mondo. A Roma è completamente distaccato da appunto dal mondo agricolo. In Germania, in Inghilterra è stato fatto il decentramento, o la Consob a Milano anziché a sì, ma il decentramento non c'entra nulla con i ministeri, cioè no, il decentramento cose... dei ministeri è quello di cui parla la Lega. Sì, ma il decentramento dei ministeri è qualcosa, è totalmente contrario al federalismo. Nel federalismo i ministeri sono al centro, i ministeri che governano lo Stato centrale sono al centro anche negli stati federali. No, in Germania sono stati decentrati, ma cioè, le cose principali sono tutte a Berlino, cioè dove la sede del governo. Nessuno dice che tutti devono essere tolti da Roma, però alcuni che hanno delle caratteristiche particolari legate a delle produzioni dove in alcuni territori sono particolarmente evocati, secondo me può avere Guglielmo, senso. Francamente non mi sembra una cosa prioritaria e non si riesce a capire il perché dell'insistenza, se non come una cosa di bandiera, forse una cosa per mettere alla prova Berlusconi stesso, per cui non capisco. Piercarlo da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Premesso che prima di telefonarvi mi sono lavato e una settimana fa ho fatto una risonanza magnetica dalla quale risulta che ho il cervello. Bene. Ecco, messo a punto questo. Ieri sera per caso ho visto in televisione, ho ascoltato in televisione l'intervento del mio concittadino, mio preferito, quello che si chiama Borghezio. Sì. E tra l'altro sullo stesso palco ho visto che c'era anche il nostro del Piemonte, presidente della regione, che è sempre appiccicato dietro le spalle di Bossi. Non ho mai capito se è da ombra o guardia spalle, non l'ho capito. Siccome appartiene al movimento, allo stesso movimento politico di Bossi, quando ci sono i comizi dove deve stare davanti? Non è che dove stia, è sempre lì. Ho capito, Piercarlo. Infatti non si riesce mai a trovarlo. Ma adesso, al di là dell'ironia, Piercarlo, la domanda mia è questa. Le segnalo che Cota è un dirigente della Lega Nord, dunque non è bizzarro trovarlo. È per quel motivo che è sempre lì. Infatti. Lei dice sta troppo lì e dovrebbe occuparsi più del Piemonte. Vabbè, ai posti di largo sentenza. È stata già decisa, è già stata rivelata veramente, la sua percentuale di presenza è molto bassa. Comunque, indipendentemente da quello, la mia domanda era quei due signori. Ma visto che sono tanto d'accordo loro due a portare nel nord i ministeri e tutto il resto, come mai due piemontesi non hanno detto ma ne portiamo uno anche in Piemonte? Ma che ne so, non lo so, Piercarlo, perché forse è la domanda che vorrei sentire, la risposta vorrei sentirla da Borghezio la prossima volta in cui lo interpellerà. No, forse per Borghezio non si porterebbe nulla, perché i ministeri lui al nord non ce li vuole, insomma. Non ce li vuole Borghezio? I ministeri non esiste l'Italia per lui? Appunto, dico, per cui figuriamoci se vuole i ministeri romani in Lombardia. Padani. Vabbè, quello sì, però in questo caso si tratterebbe di crearli. Davide, non avevi una persona? Sì, ho qui l'ospite, che è una grande collaboratrice di punta, una collega del programma L'Ultima Parola di Paragone, è la signora Cioce, che peraltro è una grande ascoltatrice della Zanzara. Perché mi devi passare la signora Cioce? Perché te la devo passare? Questa è una buona domanda. Perché ha una notizia bomba da darci. Addirittura? Qual è la notizia bomba? Signora Cioce? Luciane, buonasera. Buonasera, come sta, signora? Io sto bene, veramente sono disoccupata e casalinga, quindi se lei volesse cambiare, se non si è stufato di Parenzo, lei no? Beh no, ma no, direi no, così, no. Se devo dirlo, se dobbiamo giocare direi di sì, però no, mi sento male quando non lo sento, almeno 3-4 volte al giorno. Addirittura, sì. Beh, ma ormai sanno che siete tutti una coppia di fatto. Io a dire il vero notizie bomba non ne ho perché... Ma lei sa che L'Ultima Parola ha chiuso la stagione, quindi io sono temporaneamente, spero, disoccupata, faccio la casalinga, prendo il sole in piscina e cucino manicaretti. L'unica cosa che vi posso dire. Questo è un tema importante, è un tema importante questo. È un tema importante. Beh, io sono un'ottima cuoca, lei non lo può sapere, ma non lo posso sapere. Io sono un'ottima cuoca. Beh, insomma, c'è sempre il modo per saperlo in ogni caso, Comunque, vabbè. D'accordo, approfittatene. Lanciamo un proclama, approfittate. No, una cosa rivolta a me, a Parenzo, immagino, non tutta l'Italia che è collegata con noi, no? No, direi cominciamo da voi e Parenzo, poi insomma casomai se dovessi rimanere disoccupata si può trasformare in un mestiere, bravo, e quindi in quel caso voi potreste proviamo prima noi poi casomai diffonderemo urbi e torbi le sue qualità. Benissimo. Lei mangia tutto? Beh, insomma, io sono un po', si faccia dire da Parenzo, sono un po' difficilotto da questo punto di vista, essendo uno che fa l'atleta, diciamo, per naturalmente amatoriale, però comunque tento di fare l'atleta, ecco, faccio finta di fare l'atleta, per cui... ho capito, non so allora se lei e la mia cucina potreste mai andare a... Dipende poi dai giorni, naturalmente, dal tipo vedremo, di cose. Vedremo. Va bene, grazie. Aspettando le nomine, io cucino manicaretti. Tutti aspettano queste nomine alla RAI, una cosa pazzesca. Tutti aspettano una cosa le nomine. Pazzesca. Le fortune. Giovedì le facciamo. Di giovedì in giovedì io. Si può festeggiare. Si può festeggiare. No, io preparo manicaretti per festeggiare, ma ancora non si sa se si può festeggiare. Insomma, va bene. Anche se c'è da festeggiare. Ah, no, certo. Grazie. La ringrazio, la saluto. Prego, le prego. Passo il mitico Parenzo. Volevo portarlo a cena, ma so che avete degli impegni, quindi sì, purtroppo sì, purtroppo no, per fortuna magari. Va bene, grazie Parenzo, dove sei? Beh, una notizia clamorosa, Notizia clamorosa, sì, clamorosa. Cioè, avere una giornalista cuoca, secondo me meritava un approfondimento. Comunque andiamo avanti. Prego, sei vergognoso. Mandiamo i titoli della 7. È scontro istituzionale sulla guerra di Libia, il Quirinale ricorda la Lega, restiamo sul campo sulla base di un voto parlamentare e per impegni con l'ONU, accoglieremo i profughi, dice Napolitano. Frattini concorda, restiamo nell'alleanza, ma Maroni insiste, ribadisco quanto detto a Pontida, basta con la guerra. E sui ministeri al nord, la Russa e Cicchitto minimizzano, ma il PDL romano rompe con il patto della paiata con Bossi. Sindaco Lamanno e governatrice Polverini raccolgono firme per una petizione che dice no e minacciano una mini scissione. Tra poco vertice notturno da Berlusconi, domani inizia l'iter della verifica in Parlamento. E Matteo Salvini, Pasdaran Lombarda, al suo esordio in Consiglio Comunale di Milano, è al raduno di Pontida, beccato mentre canta cori politicamente scorretti contro i sindaci di Roma e di Milano, per par condicio, in salsa padana. Il presidente dell'Eurogruppo rassicura sui conti del governo Berlusconi. L'Italia non è in pericolo, ma la crisi greca scuote ancora i mercati europei. Borse in calo dopo la decisione dei ministri economici di rinviare gli aiuti a Atene. Riforme entro il 3 luglio, niente prestito, è l'ultimatum al governo Papandreou. Clamoroso sorpasso nel nostro sondaggio virtuale, ovviamente è lunedì. Il PD è il primo partito italiano nelle intenzioni di voto elaborate da EMG per la 7. Il partito di Bersani sale al 28,6%, mentre il PDL scende al 28,4%. E il centrosinistra è avanti di 3 punti rispetto all'attuale maggioranza. Lele Mora nei guai giudiziari non solo per il caso Ruby. L'impresario arrestato dalla Guardia di Finanza a Milano è accusato di bancarotta fraudolenta. I magistrati gli contestano una distrazione da 8,5 milioni di euro. Secondo il PM Fusco, quei soldi sono in Svizzera e Mora poteva fuggire all'estero. Beh, caro Parenzo, resta eccezionale l'uscita della signora Biancofiore questa sera sul suo assenteismo al Consiglio Comunale di Bolzano. 56 assenze, ma sono loro che non mi avvisano delle sedute mentre io sono impegnata alla Camera. Beh, è una cosa pazzesca. Io la lascio commentare a te, che hai sempre questo tono pacato, moderato di commentare le cose. Beh, cari amici della Zanzara, fatemi dire soltanto 2 parole per commentare questo fatto clamoroso delle assenze della signora Biancofiore dal Consiglio Comunale, nel quale era stata regolarmente eletta. A casa! A casa! Ti sembrerà una festa un poco sadica, sadica, ma nella Zanzara parti piatto forte siamo noi! Bene, bene, Gianluca dalla provincia di Genova, buonasera, buonasera. Intanto in questa inchiesta, in questa indagine sulla P4, questa indagine in cui c'è di mezzo il signor Woodcock, di cui alcuni dicono che la credibilità, alcuni politici del centrodestra sostengono che la credibilità è vicina allo zero quando fa un'indagine, è stato iscritto nel registro degli indagati l'amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti. Anche. Gli contestano il reato dei seggiolini di ricambio d'oro dei pendolini. No, lei sta dicendo una stupidaggine. Gli contestano il reato di favoreggiamento personale. Si tratta di una inchiesta sulla P4 e dico tutto quello che devo dire. Vabbè, chi vuole intendere intenda. Ma intendi male, perché i nomi delle inchieste hanno sempre, come dire, sono sempre nomi evocativi. No, quindi... no, ma io dico chi vuole intendere intende in un altro senso. Vabbè. Gianluca, che vuole dire? Il quesito che volevo porre a lei e a Parenzo. Sì. L'intervento è un quesito e poi un'opinione personale. Sì. Sarò rapido. Il quesito: non pensa che tutti gli italiani, o buona parte, consideri lo spostamento di alcuni ministeri l'ennesimo sperpero di denaro? Quindi ci saranno i raccomandati. A un tempo dovevi avere l'amico che ti raccomandava a Roma, adesso dovrei averlo a Roma e a Milano, segretari, uffici da prendere in affitto, palazzi da affittare a palazzinari romani che nel frattempo vabbè, adesso lei come al solito esagera. Gianluca, penso che non so interpretare l'opinione della maggioranza degli italiani. Sicuramente è uno sperpero, non c'è dubbio. Io, nel senso, la mia opinione è che sia giusto che rimanga tutto a Roma, come in tutte le nazioni. Si ricorda quando si studiava la capitale del Benelux e andava in crisi l'alunno, poi c'era l'Aia, capitale politica, e l'altra capitale amministrativa. Noi che già ce l'abbiamo lì, cerchiamo di lasciarla lì e fare le cose come si deve. Vabbè, l'intervento poi... personale invece, non pensa che sarebbe giusto dare dignità alle sue vecchie edizioni delle puntate della Zanzara? Non so di che sta parlando Gianluca, ho dimenticato tutto. Non so di che sta parlando. Quando lei faceva la Zanzara? Sì, Gianluca, ho dimenticato tutto quello di cosa sta parlando. Quando io faccio la Zanzara, perché adesso che faccio? Scusi. Adesso fa la Zanzara di Cruciani e Parenzo. Allora? so, è diversa, è molto diversa. Allora? Io apprezzo entrambe le versioni, però vi è una dignità storica alla vecchia zanzara, distinguendola da quella che sta facendo. Ah, vintage. Il vintage ha sempre un discreto successo. Magari resta solo vintage e basta. Sì, bisogna rinnovarsi sempre, caro Gianluca. Grazie, Michele da Latina. Michele da Latina, dica. Sì, buonasera. Senti, vorrei fare un intervento per quanto riguarda quello che abbiamo sentito su tutti i giornali, letto su tutti i giornali e sentito in tutte le TV. Le solite sparate che fa Borghezio e company. Allora? Io mi chiedo se una persona, credo che sia pure abbastanza colta, no? Cioè, non lo so come, che titolo di studio ha, però se ne possa uscire con delle sparate del genere e offendere. Io sono un italiano, per quello che può servire. Parenzo, vuoi sentire ancora? Vuoi sentire ancora? Io lo rimanderei un attimo per riascoltarlo. Sì, perché per me il pensiero non è molto chiaro. Sì, non era molto chiaro anche, come dire, no, il ragionamento di Borghezio. Mi sembra che sia il caso di analizzarlo ancora meglio, sbaglio? Sì, forse ci sono dei passaggi che non abbiamo capito molto chiaramente. Forse è utile, sì. E risentiamo, su. Siamo alla svolta. Dell'Italia non me ne frega un cazzo. La Padania è più viva che mai. Basta venire a Pontida. Sosteniamo la Padania perché l'Italia non conta un cazzo. Via da Roma, ladrona! Mai più, last for Rome, via da Roma, Beh, non era chiaro soprattutto il passaggio di mezzo, no? Giusto, Parenzo? Sì, c'è un momento finale che non ho ben capito. Si potrebbe riascoltare. No, adesso l'ho già fatto ascoltare quattro volte, abbi pazienza. Però che cosa dice, tenuto last for Rome? Che cos'è che dice? No, credo che parli in dialetto piemontese, stretto. Che è via da Roma, che significa via da Roma. Sì, perché il dialetto piemontese, come sai... Piemontesi, aiutateci a tradurre Borghezio. È questo che io non capivo. Andrea, lei ha capito? Lei ha capito? Sì, mi dica. Michele. Sì, ok. No, sinceramente non ho capito, anche perché mi domando come una persona può offendere tutti gli italiani, a prescindere nord, sud, centro, est e ovest, in questo modo, e sedere sui banchi, in questo caso della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, stipendiato dagli italiani, stesso che lui stesso denigra in tutti i modi. A me questi padani mi sembrano tanto, mio padre c'ha le pecore, mi sembrano tanto dei pecoroni, dove c'è lo zappo, chiamato comunemente zappo, che comanda, e tutte le pecore che vanno dietro. E sarebbe Bossi, lei dice, no? Vabbè, è la sua metafora per spiegare il leninismo della Lega, che un po' traballa però negli ultimi tempi. Grazie, traffico. Eccoci, Parenzo. Sei arrivato a Tele Lombardia? A Lombardia Channel, scusami. Che è successo? Sono arrivato. Tutto bene, tutto in ordine. Sto studiando le carte per stasera. Vabbè. Allora, Andrea da Roma, che carte? Quali dossier? Tutta una puntata è fatta sulla Lega, è una cosa pazzesca. Pronto? Sì, signor... Sì. Direttorissimo, buonasera a lei. Signor buonasera, Andrea, dica. Parenzo. Sì. Allora, io volevo semplicemente dire rapidamente che è veramente esilarante quanto ho ascoltato dalla signora Biancofiore, veramente qualcosa di... Cioè, sulle presenze al Consiglio Comunale di Bolzano? Veramente esilarante, un tentativo maldestro di giustificare l'ingiustificabile, come una persona che tenta di trovare una strada per liberarsi dalle multe che gli sono arrivate, no? Quindi magari cerca di giocare sulla notifica, ma mi è arrivata la notifica, incredibile, cioè veramente siamo veramente a livelli veramente incredibili. Per dirla con lei, con un'espressione felicissima che ebbe all'indomani dei referendum, no? La puntata in cui Parenzo cominciò a dire a casa, lei disse praticamente siamo al circo Barnum assoluto, cioè, io credo veramente che sia così. E l'ultima cosa che le dico è che quando la signora Biancofiore dice che è stata la più votata, non capisce purtroppo che questa è una assoluta aggravante. Beh sì, assolutamente sì, infatti potevo farglielo notare, cioè essere stati votati da 20.000 persone, non so quante, al Consiglio Comunale di Bolzano e poi non andare mai, non è che sia una... non è che essere eletti da 20.000 persone ti dà il privilegio di non andare al Consiglio Comunale, al contrario. Anche perché ci dovrebbe spiegare se poi si è letta tutti gli atti dei consigli dove lei era assente . E dopo aver letto e studiato tutte le carte che cosa ha fatto? Cioè, voglio dire... Beh, una che è stata 56 volte assente non credo che abbia una grande attività in Consiglio Comunale. Appunto, dico, e non credo che abbia mai recuperato rispetto a queste sue assenze. No, no, quindi, assolutamente. Dire, per pietas umana sarebbe il caso di non approfondire, insomma. Grazie Andrea. 800 24 00 24. Caro David, in collegamento, non so da dove, forse addirittura dal suo comune, sì? Borgo Valsugana, immagino. Erminio Boso. No, io sono di Pieve Tesino. Bene, lei è consigliere comunale a Borgo Valsugana. Ah, ecco, dunque. Chiediamo scusa. Chiediamo umilmente scusa, signor Boso. Prego. Moderato Boso. Dove si trova in questo momento? A casa sua? Sì, mi trovo nella baita a 1500 metri di altitudine. Sì. Com'è il tempo? Com'è il tempo? Ma qua è un po' fresco, però è cielo sereno. Cielo sereno. Per cui vediamo se ci sarà bufera più tardi. Perché con Parenzo non è che sia sempre facile fare le trasmissioni. No. Manco con me in realtà, però insomma, ogni tanto lascio il ruolo del cattivo a Parenzo. Senta, signor Boso, ma voglio dire una cosa. Il signor Alemanno, sindaco di Roma, sostiene... Lei conosce Roma, sì? Sì. Sì. Che idea ha di Roma? Ma. Lasciamola andare, Varan. Che tutti gli ultimi sindaci di Roma, da quando non c'è più Petrucci, sono sempre i peggiori che stanno amministrando Roma. Non c'è più chi, scusa? Da quando non c'è più il sindaco Petrucci, quando era Roma sta andando a dispazio continuamente, sempre peggio. Scusi, ma Petrucci quando è stato sindaco? È nel 46-47. Ah. Da allora adesso si sono susseguiti sempre sindaci, uno peggio dell'altro. Ma però Alemanno è del centrodestra, le voglio... Ma cosa c'entra questo? Non c'entra io niente. Non sono mica del centrodestra, io sono della Lega, sono un'altra cosa. Alleato. Comunque ha detto, è alleato comunque il PDL della Lega, in teoria. O no? La informiamo. Ma sai, sono di quegli alleati che è meglio perderli che trovarli. Casca il governo però, Boso. Amico mio, casca il governo se... Ma dai, se loro continuano così, fra le mani, questo e quell'altro stato, il governo va sull'ostia senz'altro. Lei dice, eh? Senta, ma lo stesso Alemanno, le dicevo, sostiene che questa storia del trasferimento dei ministeri al nord è una, che ha detto, una boiata. In precedenza il signor Galan, ministro dei beni culturali veneto, ex presidente della Regione Veneto, ha detto che era una puttanata intercontinentale. Rispondiamo prima al signor Alemanno. Ma Alemanno innanzitutto non è nemmeno romano, per cui non riesco a capire perché hanno votato uno che non è romano come sindaco di Roma. Può succedere anche. Ma è i soliti sbagli che fanno quelli di Roma, sono come quando votano Galan, presidente della Regione Veneto, sono sbagli. Beh, Galan è Veneto, però almeno Galan è Veneto. Sì, però è l'uomo sbagliato. Vabbè. È l'uomo sbagliato anche perché lui, invece che interessarsi delle altre regioni a statuto speciale, doveva combattere per far funzionare e far prendere l'autonomia al suo Veneto invece che guardare il Trentino che era lì a fianco. Ma rispondiamo al signor Alemanno, che è una cosa più attuale di oggi, che ha detto che questa storia del trasferimento dei ministeri è una boiata. Cioè, Alemanno può dire quello che vuole. Un po' una boiata è però, signor Boso. Ma perché una boiata? Scusatemi, Ma perché non serve un ministero. Comunque, sindaco di Roma era Petroselli, mi sembra, O Petruccioli? No, Petruccioli che non c'entra niente. Petruccioli era del PC. Comunque, vabbè. Boso, è una boiata. Diciamo, voi che siete federalisti, addirittura secessionisti, lei credo... È proprio perché uno Stato federale deve avere la distribuzione sul territorio... Ma no, lo Stato federale, i ministeri, quelli centrali, sono a Roma. Ma chi ve l'ha detto questo? Ma come no? Ma chi ve l'ha detto? Tutti gli stati federali hanno la suddivisione dei ministeri sul territorio. No, non è così. Quelli al sud, quelli al nord, quelli al centro. Vabbè, insomma. Guardi Boso, che lo Stato federale per eccellenza, cioè gli Stati Uniti d'America, hanno tutti un'unica sede e non ha nessun senso, ma nessun senso, è soltanto una cosa, e lei lo sa perfettamente, un po' propagandistica, perché i problemi veri sono gli altri, i problemi veri sono Equitalia, sono le tasse, non spostare simbolicamente e mettere una targa alla Villa Reale di Monza. Boso, lo sai meglio di me, solo fammi arrabbiare subito, guarda. Non ho mica capito cosa ha detto questo. Che... No, questo, cioè, non farmi arrabbiare, sai, anche tu che è una trovata propagandistica e non serve a niente, lo sai. Parenzo, la tua fortuna è che continui a fare il giornalista felice perché non capisci niente. Se tu fossi una persona che capisse qualcosa non faresti questi ragionamenti. Capisci, Parenzo? C'è un bel momento, io... Come proposta politica faccio una proposta che mi comporti la possibilità di avere sul territorio il controllo diretto su dei ministeri. A Roma sono troppo lontani. Ma che lontani? Ci sono uomini, i miei ministeri. Ma quali ministeri? Ma a un bel momento il ministero di Bossi, il ministero della semplificazione, cioè, il ministero del lavoro. Ma che porti il ministero del lavoro dove che gli unici che stanno lavorando sono dipendenti pubblici? Lo porterai dove che c'è la produzione, no? Ma scusi, dove Boss, le persone che rendono ricchezza possono avere il ministero sotto Boss, mano, ma voi una andare a Roma. Ma voi una volta li volevate abolire i ministeri, volevate ridurre il personale, adesso li volete portare, allora, li volete portare nella cosiddetta Padania. Che sta dicendo Bersani. Noi l'unica cosa che abbiamo sempre detto è la cancellazione delle prefetture. E questo deve essere cancellato. Le province che hanno il comune capoluogo di regione come Milano e come il resto. Abbiamo sempre detto che bisogna diminuire le ambasciate che ci abbiamo all'estero. Scusi Boso, ma se Berlusconi questa storia di ministeri non la fa, voi che fate? A casa? No, Berlusconi va a casa, ma lo sa anche lui. Ma Bossi ieri gli era detto, stai attento che in settembre c'è Venezia. Venezia vuol dire qualcosa. E che ne so. Ma fosse per lei l'avrebbe già mandato a casa Berlusconi, eh? Io sì. Io come? Non l'avrei nemmeno votato. All'inizio? Certo. Vabbè, ho capito che... Ma ragazzi, nel 94, sotto la firma di Umberto Bossi, la sfiducia a Berlusconi c'era mia firma, eh? E dunque lei rimane convinto che Berlusconi sia, come diceva all'epoca Bossi, mafioso, eccetera, eccetera? No, io non dico questo. Io dico soltanto all'epoca che questo Berlusconi diceva è venuto Bossi a farsi gli affari suoi. In politica? Certo. Non è che gli altri siano molto migliori, Prodi e tutti quelli, eh? Dunque, secondo Erminio Boso, Berlusconi è in politica per farsi gli affari suoi. Gli affari suoi, gliel'ho sempre detto, gliel'ho detto anche a lui. E quando gliel'ha detto? Io le mezze frasi non l'ho mai usato. Quando gliel'ha detto? Quando gliel'ha detto? Ma un bel momento che eravamo sull'ascensore in Senato insieme a Letta. Anni fa? Certo. Che gli ha detto? E lui come ha risposto? E lui mi ha guardato e si è messo a ridere. Numero uno Berlusconi, in questo caso. Certo, ma io non c'ho mica... Cioè, ragazzi, Berlusconi è là, gli hanno dato i voti. È un bravo mino. Ha beccato anche il mio voto perché ho votato Lega. Ma con questo non vuol dire che a me mi stia bene. Va bene, Boss, un attimo, abbiamo la borsa. 800-24-00-24. A tra poco. Eccoci, caro Parenzo. Sì. Allora, c'è un genio, un tale Claudio da Roma, che scrive: Petrucci è stato l'ultimo sindaco di C di Roma, Petroselli è stato il primo sindaco del Partito Comunista, Petruccioli ha goduto di qualche fama come direttore dell'Unità e poi come presidente della Commissione RAI. Cari ragazzi, anche per fare la spettacolo occorre cultura e voi non ne avete. Claudio, come al solito, non ha capito assolutamente nulla, non ricordavo che Petrucci fosse stato l'ultimo sindaco di C di Roma, chiedo venia, non mi pare un peccato grave. Petruccioli abbiamo detto. So benissimo chi è Petroselli e ancor meglio so chi è Petruccioli, perché naturalmente mi occupo di politica più o meno quando Petruccioli aveva iniziato a avere ruoli di livello nazionale. Possiamo dire anche che è sposato anche con gli Agnelli, quindi diamo anche una notizia in più al signor Claudio da Roma. Claudio, ecco, da Roma. Caro Claudio, tanto per rimettere le cose a posto. Signor Boso, quando staccate la spina? Ma a un bel momento la spina ce la fanno staccare quelli che si vogliono schierare contro le richieste di Pontida, richieste ideali e giuste, e un bel momento questi fanno delle proposte faziose e provocatrici, come quelle del sindaco Alemanno, o come quelle che ho sentito questa sera di Casini, che è un nome e un programma e tutte queste cose qua. Loro non ci danno e noi ce ne andiamo, o loro li mandiamo a casa, l'abbiamo già fatto nel 94, possiamo farlo anche oggi. Scusi signor Boso, ma in fondo tutta la base della Lega la pensa come lei? Ma il 99%. E perché poi non succede nulla? Perché ci sono troppe cadreghe. Ma non è vero, un bel momento. Il segretario federale, noi lo chiamiamo il capo, perché anche se è un pochettino fisicamente malconcio, la testa c'è tutta. Lei dice? E lui deve portare avanti un progetto politico. Sì. Lui ha sempre detto, anche col diavolo, purché il progetto vada a finire. Ecco, Berlusconi, in questa scala, che diavolo è? Proprio il massimo del diavolo oppure c'è qualcuno peggiore? No. Lui ha detto anche col diavolo, visto che nelle famiglie cristiane il diavolo è la peggior cosa che ecco, ci sia. Berlusconi anche col diavolo. E Berlusconi è come il diavolo in questo caso, no? No. Lui è una battuta. Sì, ho capito. L'ha detto. Però per lei, secondo Boso, Berlusconi è un po' vicino al diavolo da questo punto di vista. No, per me Berlusconi è niente, ragazzi. Come niente? Come niente, Presidente del Consiglio. Grazie ai voti della Lega. Per me Berlusconi non è niente. Ma che vuol dire non è niente? Cioè, tutti quanti lo decantano e questo e quell'altro stato. Per me Berlusconi vale molto meno di Parenzo. Addirittura. Ha detto moltissimo. Ma scusi, signor Boso, non può dire una cosa del genere. Il Presidente del Consiglio è un vostro alleato. Ma non c'entra niente, vedete, può essere mio alleato, possiamo fare un viaggio assieme e quando l'amore si rompe ognuno a casa sua. Dopo un anno, due anni, cinque anni ti puoi ritrovare per un altro percorso insieme, perché la politica deve essere fatta per le persone che hanno bisogno. E la persona che ha bisogno in Italia sono l'85% della comunità. Tra l'altro, il 15% se ne sbatte le palle della politica. Boso, devo tra l'altro correggere l'ascoltatore di prima che ci faceva una lezione sui sindaci di Roma, Claudio, perché in realtà l'ultimo sindaco di C di Roma non è stato affatto Petrucci, come lui dice, ma come mi segnalano, anch'io questa cosa l'avevo dimenticata perché comunque 12 anni di Milano non sono passati in vano, l'ultimo sindaco di C è stato Signorello tra l'85 e l'89. Grazie al signor Marcucci per questa segnalazione, dunque quale Petrucci? Caro Claudio, invece di fare il maestrino, si informi meglio. Io almeno su Google, ammetto le mie dimenticanze. Signor Boso, insomma io vorrei capire una cosa, pure lei non è che a sindaci di Roma se ne intende molto, eh? Lei in realtà lei ha detto che l'ultimo sindaco valido è stato Petrucci. Beh, questa è la sua idea un po' folle comunque. No, perché? Volta c'era SPQR. Sì. Sindaco Petrucci, quando rubasti? Rubai quando potei, stronzi. E questo me lo raccontavano i romani. No, scusi, com'era sta storia? Sindaco Petrucci. Sindaco Petrucci, quando rubasti? Rubai quando potei, stronzi. E questo me lo raccontavano i romani, perché io quella di SPQR non me ne frega niente. Per cui se i romani mi dicono questa cosa, io ci credo a certi romani. È bellissimo, se poi perché questi romani mi ha raccontato balle, allora vuol dire che l'unica fonte vera dei romani sono le bugie. O no? Ma no, ma che ne so, Boso, mi sembra una generalizzazione. SPQR, non avevo mai ragionato sul fatto che fosse una parola palindroma, che si può leggere, bellissimo, perché non lo sapevo. Vabbè, caro Boso, si sta bene su quelle... A che altezza è lei? A 1500, abbiamo la stufa accesa perché fuori è freddo, fuori ci sono 6 gradi. Vabbè, beato lei. Caro Boso, la saluto, Senta, ma la Libia... Ma la Libia un bel momento, io non avrei nemmeno incominciato a bombardarla, anche perché quelli sono affari di Gheddafi, se la facessero fuori con Gheddafi. Ma questi barconi, come li fermiamo? Abbiamo le truppe speciali in Italia, si mandano nella zona di mare, si va a guardare i barconi, una spoletta a ogni barcone, gliela affondi, così non c'è più nessuno che viene verso di noi. Beh, affondano bene. Anche i, come dire, non solo i trafficanti, affondano pure. No, quando che ci sono le barche al porto, giusto? Sì. Sono mergiate, sanno quale che sono. Ah, lei dice facciamo una bella spedizione, affondiamo le barche e via. Certo, le affondo tutte quante sulle spiagge, per cui non parte più nessuno. Ho capito. Se lei è sempre sono tutto barconi che non servono più. Lei è sempre quello della teoria del ghiacciaio, no? Sempre ghiacciaio, sempre. Cioè una volta che però riescono ad arrivare, nonostante l'affondamento di queste barche in Italia, portarli in alta montagna, giusto? Subito. Fate cambiare aria, così si ossigena bene e preparano le granatine. Beh, è una roba vergognosa, dai, non si può scherzare su questa roba qui. Su. Perché? In che senso non si può scherzare? Ma che si possono dire queste cose qui? È di un cinismo e di una cattiveria unica. Non si può scherzare su questo, dai, su. Parenzo, dai, non cominciare a fare il perbenista, dai, che no, tanto non ti crede nessuno. Non costruirti una facciata nuova. Non si può scherzare. Non è che ti costruisci una facciata nuova, dai. Sulla vita delle persone non si può scherzare. Sulla vita delle persone non si può scherzare. Ma io non sto scherzando sulla vita delle persone. Tu stai diventando quella persona di sinistra che volutamente travisa le frasi delle persone. Beh, hai detto di portare, scusi Boso. In montagna, perché la montagna, uno che viene dal deserto, le fa bene, si ossigena meglio. Cosa volete più di così? Ho capito, uno non può portare degli immigrati ai lavori forzati, non so dove, in quale ghiacciaio nel nord, perché in questo modo poi muoiono, signor Boso. Ma chi è che ha detto che muoiono? Beh, scusi, dai le scarpe giuste, certo che voi le mandereste scalzi. Le dai le scarpe giuste, le dai la copertura e le giaccavento giuste, possono lavorare come lavorano i nostri sui ghiacciai, possono lavorare anche loro. Scusi, ma poi in quali ghiacciai bisognerebbe portarli questi qua? Ma ce ne sono in giro ghiacciai che puoi farli lavorare, ce ne sono un'infinità, guarda. Comunque lei tutti quelli che arrivano irregolari li porterebbe sui ghiacciai? Certo. Sui ghiacciai. Ma c'era addirittura una proposta di legge sua così? Certo. Come certo? Era quella delle impronte dei piedi, ragazzi. Una cosa che funziona nel mondo intero, tranne che con gli imbecilli che vivono in Italia e con quei giornalisti che fanno finta di essere per bene, che dicono che i controlli in America vanno bene i controlli delle impronte dei piedi. Ma che c'entrano le impronte dei piedi poi con i ghiacciai? Ma perché ho sentito Parenzo che stava borbottando qualcosa. No, ma che c'entrano le impronte dei piedi con i ghiacciai? Perché fa parte di tutta la stessa legge. Ah, è un pacchetto che lei proponeva. Pensa a te. Le riforme di Boso, pensa a te. Vabbè, signor Boso, questa sua proposta non ha mai avuto nessun seguito. Meno male. No, siamo andati a elezioni anticipate. Ma nella Lega oggi non è condivisa da nessuno oggi. Da tutti i dipendentisti è condivisa questa legge. Bah. Quella sul portare i clandestini nei ghiacciai. Certo, che così li controlli. Ah, così controlli. No, certo. Sto cercando di immaginare la scena, cioè frotte di clandestini. No, verso... non avete la fantasia per immaginare. E allora ce la descriva lei la scena. A voi manca la fantasia. Ce la descriva lei la scena. No, io ve la potrei descrivere, ma voi non ci avete fantasia, per cui sprecherei il mio tempo a spiegarvela. Ma come? Certo. Ce la descriva, me la descriva a me. Io... Ma no, è inutile, con voi non si può descrivere delle cose. Vabbè. Sono troppo belle, sono cose troppo intelligenti per voi. Vabbè. Non potreste capirle. Vabbè, d'accordo. Grazie. Va buono, ciao. Ciao, traffico. Eccoci, 20:47, 800-24-0024 per chiamarci in diretta. Andiamo a Pierpaolo Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, sono Pierpaolo Antonelli e sono il segretario della circoscrizione Navigli Martesana della Lega Nord. Li chiamavo perché... Lei chi è quello che ha fatto... È un nome che non mi è nuovo, ho letto oggi sul giornale. È per caso quello che ha fatto quello striscione Maroni, presidente del Consiglio? Esatto, sono l'ideologo di quello striscione. Saluto l'amico Bozzo che ha dato delle sue valutazioni riguardo al discorso dell'immigrazione. Volevo fare prima un preambolo a riguardo, perché il discorso dell'immigrazione è un discorso molto complesso. Maroni è stato molto chiaro su quale poteva essere la soluzione. Però non faccia preamboli, per Paolo, perché ci ha chiamato a parte l'immigrazione? Vi ho chiamato perché sul discorso dello striscione volevo dare una motivazione politica sul perché di quello striscione. Voi vorreste Maroni presidente del Consiglio, non mi pare che il problema è che vede Cruciani, il problema è che a Pontida c'era comunque non nascondiamo, la base leghista era comunque abbastanza scontenta, non nei riguardi tanto del movimento, del fatto che noi ultimamente siamo un po' quelli che mantengono su in piedi il governo. E con quello striscione noi abbiamo voluto dare un segnale molto importante, che è effettivamente arrivato un segnale molto importante, e si stanno, le assicuro, muovendo molte acque a riguardo. Perché si stanno muovendo acque, secondo me, più all'interno della Lega, perché l'ipotesi di Maroni presidente del Consiglio è legata alle elezioni. Stanno muovendo acqua all'interno della Lega, questo non glielo nascondo, ma questo perché? Perché si stanno evidenziando le motivazioni del perché c'è tanta moderazione all'interno del movimento nei riguardi dei compagni, amici del PDL, eccetera. Però Pierpaolo, adesso non possiamo fare una disquisizione su quello che succede all'interno della Lega, però io le voglio chiedere una cosa. Il senso di quello striscione che io volevo appunto a lei evidenziare anche agli amici spettatori è che comunque in questo momento gli amici del PDL devono capire soltanto una cosa importante, che è arrivato il momento in cui forse si devono mettere un attimino a riposare e lasciare spazio alla Lega, perché comunque in questo modo se si va avanti così il centrodestra è destinato a morire. Però Pierpaolo le faccio presente che a parte che dare spazio alla Lega non è che dal punto di vista elettorale comunque il PDL pesa più della Lega, dunque non è che si può lasciare mano libera la Lega, come dice lei. Seconda considerazione, non è che la responsabilità di una situazione complicata del centrodestra non sia anche della Lega, ci sono responsabilità evidentemente anche della Lega. Quando si perde sempre in due, dunque non capisco questa litania continua della Lega come se non ci fosse alcun tipo di responsabilità. Non è quando lei parlava prima i riferimenti riguardo ai subbugli interni della Lega, io le posso dire che comunque io non parlavo di quello come responsabilità, in alcuni tipi di decisioni eccetera la responsabilità è anche della Lega. Io sono convinto che questa storia di ministeri gli italiani non la capiscono nemmeno i leghisti, nemmeno i militanti della Lega non lo capiscono, non lo vogliono. Guarda, se lei non mi fa spiegare però il concetto che io le voglio far capire non ci siamo. Io ho chiamato perché comunque volevo spiegare a voi il perché di quello striscione, e volevo entrare nei dettagli, anche dettagli abbastanza particolari che possono interessarvi sicuramente. Quello striscione è uno striscione che serve, che è servito ad accorpare tutta la base leghista, che comunque è unanime su quel messaggio, il fatto che comunque Maroni possa essere un buon successore di Berlusconi alla presidenza del Consiglio. Vabbè, ma non solo questo, è servito anche a smuovere chi eventualmente cerca di interferire nella Lega Nord, attenzione alle parole che sto dicendo, cerca di interferire nella Lega Nord per far sì che la Lega Nord non abbagli troppo, capisci cosa voglio dire? Vabbè. Quindi noi ci siamo accorti che purtroppo ci sono movimenti da parte di magari di qualche amico alleato del PDL che magari vuole che la Lega in questo momento sia bella tranquilla, e invece purtroppo la base leghista, ma anche altri esponenti della Lega, stanno capendo che purtroppo anche all'interno della Lega ci sono delle interferenze che noi stiamo cercando di estirpare e estirperemo prossimamente. Pierpaolo, però se lei ci chiama per parlarci poi in una sorta di politichese interno per spiegarci sui movimenti, non la gente normale non capisce assolutamente nulla. Grazie. Luciano da Roma, buonasera. Dica Luciano. Abbassi la radio, chiuda. Pronto. Buonasera. Dica. Volevo fare un intervento a proposito di quello che solitamente sentiamo ripetere da quel pancione di Borghezio. Dico, ma non ci sarebbero i presupposti per fare una denuncia per vilipendio alla bandiera, oppure non so, il sindaco di Roma a prendere una posizione nei confronti di questo essere immondo che non fa altro che offendere? Non sento mai una proposta, un discorso serio fatto da una persona adulta, mi sembra un povero, vabbè, non voglio. E comunque niente, se un cittadino qualsiasi, appunto, so che c'è il reato del vilipendio alla bandiera. Non credo ci sia più. Vabbè, comunque credo, essendo una persona eletta nella Costituzione dal popolo italiano per la Costituzione italiana, il fatto di sentirsi dire l'Italia non vale un cazzo, signori, ma io apprezzo appieno la sua conduzione, la sua trasmissione, però effettivamente le riconosco, non so, forse il torto di farci sentire sempre quest'essere, che è una cosa immonda. Io spero che stia soltanto farneticando, anche meriterebbe la camicia di forza, perché se malaguratamente dicesse cose serie che veramente pensa, è una persona che andrebbe eliminata proprio fisicamente. Secondo me le pensa quelle cose. Felice da Bergamo, eliminare fisicamente non scherziamo. Felice da Bergamo, dica. Sì, buonasera dottor Cruciani. Buonasera, dica. Io volevo prendere spunto dall'ascoltatore che era manifestava la sua nostalgia rispetto al format vecchio della Zanzara, in quanto ritengo che questa Zanzara attuale e odierna abbia un livello di l'encefalogramma piatto ormai. Cioè, bene. Per me l'encefalogramma non è mai piatto in generale, comunque insomma. No, la Zanzara ormai non punge più, cioè stanca, cioè, faccio fatica anche facendo zapping quando lei mi propone Borghezio per tre quarti d'ora. Io non sto proponendo Borghezio da tre quarti d'ora, naturalmente questo se lo inventa lei, non sto affatto proponendo Borghezio da tre quarti d'ora, anche perché Borghezio non è qua. Sono le puntate precedenti, comunque sia, voglio dire, più spazio agli ascoltatori e un po' meno questi fanfarone. D'accordo, Felice, grazie. Carlo da Torino, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Pronto? Dica. Salve Parenzo, simpaticissimo. Allora, io volevo parlare di Borghezio, lo conosco personalmente. Che però andava... però ne parla domani, ne può parlare domani? Stasera dobbiamo chiudere, abbiamo ordini tassativi. Ci sentiamo domani, la Zanzara, 18:30, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non ti preoccupare. Radio 24, la passione si sente.